Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, i temi europei oggi si declinano in chiave Ucraina che ormai da giorni vive appunto una profondissima crisi, una lacerazione al suo interno e tra le sue due grandi anime, l'abbiamo detto più volte, quella russofona soprattutto nell'oriente appunto del paese, invece quella occidente che di fatto viene in qualche modo rappresentata da Leopoli, Lvov, la capitale appunto delle zone occidentali, una spaccatura che porta a scontri drammatici, morti e che coinvolge ormai pienamente l'Unione Europea. E da qui partiamo. Il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski è di fatto l'interlocutore principe della crisi. Su richiesta del capo della diplomazia dell'Unione Europea Catherine Ashton è stato affidato lui il compito dunque di portare avanti la trattativa. Su questo aspetto, su queste trattative, chiedo un aggiornamento a Laura Bettini, che sta seguendo in maniera dettagliata da parecchi giorni questa vicenda. Laura. Sì, come ricordavi, Sikorski è stato un po' il capo di questo incontro che si è svolto oggi a Kiev e ha guidato una delegazione di cui facevano parte anche il ministro degli esteri francese Fabius e il tedesco Steinmeier. Hanno incontrato il presidente Yanukovych a Kiev appunto, ma non l'hanno potuto fare nei palazzi del governo perché questi erano stati evacuati per motivi di sicurezza. L'incontro comunque c'è stato, è durato circa 3 ore e sappiamo che al momento si è concluso e che i 3 ministri dovrebbero essere adesso in volo per Bruxelles, dove si terrà la riunione straordinaria di oggi dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Insomma, una vera e propria spola. Che cosa ci si attende dall'Unione Europea oggi pomeriggio e dall'esito? Quale esito ci si attende da questa riunione? Proprio i 3 che ho nominato prima hanno ciascuno una visione diversa di come gestire la questione. C'è la posizione quella dura della Polonia, il cui premier si è detto pronto anche a tenere colloqui con tutti i big europei pur di arrivare a sanzioni personali e finanziarie contro Kiev. C'è una posizione agguerrita, ma leggermente meno, che è quella francese rappresentata da Fabius, che stamattina prima di partire ha detto dirò a Kiev che ci apprestiamo ad adottare sanzioni contro i responsabili della violenza, quindi pronto alle sanzioni ma non così determinato. E c'è una posizione decisamente più moderata, che è quella tedesca, che è voglio fermare la violenza, spingere le parti al dialogo, è quello che ha dichiarato il ministro degli esteri stamattina poco prima di partire. E queste sono un po' le posizioni che oggi pomeriggio saranno sicuramente rappresentate. Come ha ricordato il ministro degli esteri italiano Bonino, però la situazione è difficile e durerà a lungo. Grazie Laura Bettini. Nel frattempo, tanto per dare ancora la misura di quanto sia veramente lacerata la società ucraina, il Comitato Olimpico dell'Ucraina ha smentito la notizia apparsa sulla BBC della partenza di metà degli atleti appunto di Kiev, rappresentanti dunque della delegazione a Sochi. Una spaccatura anche in questo caso, si parla di 20 su 43. Come sentite, c'è davvero una spaccatura profonda in due parti. Ora, qualche testimonianza. Molte, come sappiamo, le comunità ucraine sparse in Italia, tra quelle più importanti a Roma l'Associazione Culturale Ucraina in Europa. Ne sentiamo il portavoce Giulio De Nicolais, originario peraltro dalla Bielorussia, raccolto da Valeria De Rosa. Sentiamo. In tutti questi anni che cosa è successo? È successo che la forte coscienza religiosa di queste persone si è prima trasformata in una coscienza sociale, poi questa coscienza sociale si è trasformata nel tempo in una coscienza politica, di voler trasformare questo loro Stato in uno Stato che abbia una società con tutti i suoi difetti come ce l'ha la nostra, ma comunque una società libera. Quanto ha influito il fatto che l'Italia sia all'interno di una struttura come l'Unione Europea? Molto, perché loro vorrebbero che il loro Stato fosse con tutti i difetti che è il nostro, molto simile al nostro, oppure come la Germania, oppure come la vicina Lettonia, che ha fatto una scelta iniziale molto molto più determinata della loro e infatti si trovano molto più avanti. Ma vorrebbero anche poter essere indipendenti, cioè non essere né in Europa né, diciamo, nell'influenza post-sovietica. E ora Marianna Sorognevich, caporedattrice di Gazeta Ukrainska, il giornale della comunità ucraina in Italia. L'Italia è sempre stata solidale con l'Ucraina e anche l'Europa è stata solidale, però dopo le parole, dietro le parole di solidarietà non ci sono state nessuna azione. Invece noi chiediamo le sanzioni per i nostri politici che hanno portato alla morte della gente. Noi chiediamo di bloccare i loro conti in Europa, di bloccare il loro business in Europa, indagare su soldi ottenuti dalla corruzione e dalle attività illecite. La nostra idea è un'idea europea e noi combattiamo per la libertà dell'Ucraina, combattiamo per l'Ucraina con valori europei, valori della libertà della persona, libertà dell'espressione, della religione e diritti, per diritti umani. Noi crediamo in Europa, crediamo nel suo intervento democratico. Bene, con questo è tutto per Europa 24, l'appuntamento naturalmente a domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.